Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci, facci vedere finalmente dei fatti, scrive oggi la Süddeutsche Zeitung rivolgendosi a Matteo Renzi che ieri ha presentato all'Europarlamento il programma del semestre italiano di presidenza europea. Un altro giornale tedesco, Handelsblatt, parla di rinascimento italiano dopo il bunga bunga. Il discorso di ieri dunque di Renzi a Strasburgo, un discorso a cui è seguito un acceso dibattito sulla flessibilità, come vi abbiamo ampiamente raccontato in questi giorni nei GR24. In particolare è andato in scena il dissenso del capogruppo tedesco del PPE Manfred Weber, che ha insistito sulla necessità del rigore nei conti e nelle regole. Non prendiamo lezioni da chi proprio in quest'aula ha ottenuto non la flessibilità, gli ha risposto Renzi, ma addirittura lo sforamento del tetto. Il nostro inviato Sergio Nava è intervenuto a Strasburgo in un dibattito svoltosi proprio vicino all'aula dell'Europarlamento ed è tornato sulla flessibilità proprio con Manfred Weber. That we could have more flexibility if we are guaranteeing reforms. That is now the new deal of some of the socialists. Sorry, we already did this. The Barroso Commission already gave France, Hollande, 2 years more time for doing reforms. And I see nothing in France, in Paris. So I don't have the trust in the socialists when they are asking for flexibility. And once more flexibility means more debt. Quello che ho sentito è che potremmo avere maggiore flessibilità in cambio dell'impegno di fare riforme, ha detto Weber in questa conversazione con il nostro Sergio Nava, state sentendo la sua voce in sottofondo. Questo è il New Deal socialista, ma la commissione di Barroso ha già fatto questo, ha già dato a Francia ed Olanda 2 anni in più per fare le riforme e non vedo grandi risultati in Francia, a Parigi. Quindi non mi fido dei socialisti quando chiedono maggiore flessibilità, perché flessibilità vuol dire ancora una volta più debito. E più debito vuol dire meno futuro alla fine per i nostri figli. Quindi non mi fido dei socialisti. Ma se un paese fa le riforme, sareste disponibili come popolari ad accettare un percorso più flessibile nel calcolo del debito, ha chiesto il nostro Sergio Nava? Chiedete ai portoghesi, agli irlandesi, ai greci, sa cosa dicono? Che hanno fatto le riforme. Noi abbiamo fatto le riforme, dicono. Invece tutti dobbiamo accettare le regole. Grandi e piccoli paesi devono tutti attenersi alle stesse regole. Noi guardiamo al futuro, in un futuro europeo, ma anche a livello delle singole nazioni. La questione chiave non è che ci dovrebbe essere più Europa, non ha senso dire questo, perché la responsabilità dell'Europa è nelle mani dei singoli stati. Sono i singoli stati a scrivere i trattati, sono loro a decidere quali responsabilità deve avere. Queste dunque le parole di Manfred Weber. E ora è urgente prendere iniziative, siamo ad un punto di raccordo, è possibile prendere iniziative per la crescita dopo aver ristabilito la stabilità finanziaria. Queste invece sono le parole di questa mattina del commissario europeo per il mercato interno e i servizi per l'industria, il francese Michel Barnier, in audizione alla Camera. Non siamo ancora pronti per gli eurobond, la situazione non è ancora matura, ha detto ancora Barnier, che ha parlato di molte reticenze da parte della Germania e ha invitato anche la presidenza di turno dell'Italia ad accelerare sui project bond. Devono essere accettati e sviluppati, ci permetterebbero di fare molto in termini di investimenti. Per gli eurobond la premessa è che c'è bisogno di fiducia gli uni negli altri, la fiducia non è ancora ristabilita completamente. Intanto si delinea la composizione delle nuove commissioni al Parlamento europeo. Dopo l'elezione del socialdemocratico tedesco Martin Schulz, il nuovo Parlamento europeo ha messo a punto oggi la composizione delle 22 commissioni e subcommissioni parlamentari della prossima legislatura. L'aspetto naturalmente è procedurale, ma ha anche una valenza politica. Rivela l'importanza che i deputati attribuiscono ai vari temi sul tavolo. La Commissione Affari Economici, che dovrebbe essere presieduta dall'italiano Roberto Gualtieri, sarà composta da 61 membri rispetto ai 50 precedenti. La Commissione Affari Sociali sale da 50 a 55 membri. La Commissione Industria passa da 61 a 67 membri. Gli esponenti della Commissione Commercio Internazionale, infine, salgono da 31 a 41. Il rilancio dell'economia e i risvolti sociali sono i temi a cui i deputati attribuiscono particolare importanza, in un momento in cui il Parlamento assume una nuova centralità nel processo decisionale europeo. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Strasburgo. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.